e può esservi utile nella pratica se lo trovate utile per voi. Allora, nel buddismo si chiama la presa dei rifugi ed è considerato il modo in cui una persona aderisce alla pratica del Dharma. Come una persona in forma ufficiale diventa buddista prendendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Non mi piace stare in questa posizione, mi sento a disagio. Va bene così. Grazie. Sì. Ma questo basta, è sufficiente. Questo può essere visto come qualcosa di formale e di religioso. In realtà è una pratica molto interessante e si consiglia a chi pratica la meditazione di farlo ogni volta prima della meditazione, prima di cominciare la meditazione, perché definisce il piccolo stacco fra la mente ordinaria della vita quotidiana, tutti i suoi problemi, e quello che tu vai a fare nella pratica, no? La formula ufficiale è prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Oppure Butto, Dhammo, Sangho, Namami. Mi inchino al Buddha, al Dharma e al Sangha, che vengono considerati i tre gioielli. Perché sono i tre gioielli? Perché il Buddha è non soltanto, anzi direi che in un certo senso non è affatto il Buddha storico come figura, no? Buddha è la natura di Buddha dentro di noi, è la mente illuminata. Quindi prendere rifugio nel Buddha significa prendere rifugio nella propria mente illuminata. Tradotto in termini PNL, prendo rifugio nelle qualità dell'essere. Il Dharma è la pratica, è la pratica di quella disciplina che ci connette alla pratica della consapevolezza, compassione e di tutte le qualità dell'essere. E il Sangha è la comunità dei nostri nobili amici nei quali ci sentiamo sostenuti in questa pratica, che ci danno sostegno nella pratica. Ricordarsi questo, almeno una o due volte al giorno, prima della meditazione, ha l'effetto riorientante, capisci? Riorienta internamente e prima della pratica, anche semplicemente ripetere, prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma o nel Sangha, oppure mi inchino al Buddha, rendo onore al Buddha, al Dharma e al Sangha. Significa che tu interiormente, quando ti vai a sedere, fai uno stacco con il resto e dici, ecco, adesso mi sto orientando verso le qualità dell'essere, verso il mio sé profondo, eccetera, eccetera. Un'altra formula che Speranza ed io amiamo ripetere alla fine della meditazione, invece, è questa frase sanscrita molto bella che si canta così: Loka samasta sukhino bhavantu. Che tutti gli esseri di tutti i mondi possano essere felici sempre, che è quello appunto di questo irradiare questa pace, questo benessere, questo desiderio di unità con tutti quanti, no? Di trasmettere questa cosa, che definisce a un tempo la fine della meditazione e l'inizio della pratica, che la pratica è la vita quotidiana. Quindi tu vai nella vita quotidiana con questo atteggiamento, con i tuoi rifugi dietro le spalle, che ti danno sostegno come i tuoi genitori, come dire, e con questo atteggiamento di diffondere questo augurio di pace, di felicità e di orientamento a tutti gli esseri, capisci? Questo senso di comunione, capisci? Queste sono due piccole cose che, fatto prima e dopo, definiscono un tempo iniziale, un tempo finale della pratica formale e riorientano, favoriscono il riorientamento interno. Solo questo, molto Molto bello, molto bello. E Buddha, Dharma e Sangha. E sul Sangha ci puoi dire qualcosa di più? Cioè, in questo senso, come va orientata la mente? rispetto alla parola sangha? Guarda, nel senso più profondo, il sangha è quello che nella tradizione cristiana corrisponde alla comunione dei santi. Ecco, perfetto. No? Quindi nel senso più profondo, prendere rifugio nel sangha significa prendo rifugio nell'aiuto di tutti gli uomini saggi, santi, illuminati, di tutte le forze protettrici, angeliche, le forze ideva, le divinità, di tutti coloro che sono alleati nel sentiero, e sentirsi non soli nel sentiero, ma sentirsi con alleati davanti, dietro, sopra, sotto, da tutte le parti che procedono con te in quella direzione. Capito? Quindi prendere rifugio nel sangha significa prendere rifugio nel fatto che non sono solo, nel fatto che con me ci stanno tutte le forze positive dell'universo che mi sostengono in questo cammino, perché quando io mi muovo nella direzione del Buddha e del Dharma, io mi muovo in una corrente, in un flusso dove non sono solo, ma dove sono in compagnia di protettori. No? E questo nel senso più profondo del termine. Nel senso più invece orizzontale del termine, il sangue è proprio sono i nobili amici, quelli che sono i tuoi alleati nella vita quotidiana, e che questo tu non lo fai solo per te, ma lo fai anche per dare sostegno a loro, ti senti unito con loro in questa cosa, e nel senso più allargato, il sangue sono tutti gli esseri viventi. Per cui tu facendo questa cosa non la fai solo per la tua personale illuminazione, ma per portare questo, è la tua mission, di portare questo a tutti gli esseri viventi. Quindi prendi rifugio nel sangue significa che prendi rifugio anche nella tua mission nei confronti di tutti gli esseri viventi, nella quale ti senti sostenuto dal piccolo gruppo ristretto dei tuoi alleati, dei tuoi amici con cui fai questa pratica, e dal grande gruppo di tutti i protettori che hanno già fatto questo cammino, che sono testimoni della verità di questo cammino e che ti sostengono nel praticarlo, capisci? Benissimo, perfetto. Allora, molto bene. Possiamo spegnere, si preme quello, si preme. No, questo.